Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, e il programma andrà avanti fino alle ore 21:30 e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Questa che abbiamo ascoltato era la canzone introduttiva di questo programma, cioè il brano appunto che apre e la sigla d'inizio, ed è un brano dei Behind Enemy Lines, e questa è la trasmissione Zardins Magnetics che ora andrà avanti fino alle ore 21:30. Stiamo trasmettendo in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane da Udine e ora andiamo all'ascolto, oltre a ricordarvi che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, ma ora noi andiamo all'ascolto di questa band, diciamo band storica degli anni 2000, che purtroppo non esiste più, e tra i vari album che ha fatto uscire c'è questa The Last Light. Loro erano di Portland, Stati Uniti, e era questa band tutta al femminile, le Arum Scarum, che ora andremo ad ascoltarci uno o due brani. L'autodeterminazione è un sabotaggio, così abbiamo scelto di iniziare la parte, diciamo, parlata di questa puntata di Zerlings Magnetics, per dare così corpo, diciamo, a questa affermazione: l'autodeterminazione è un sabotaggio, e abbiamo pensato di proporvi le letture di due post di Nicoletta Poidimani. Il primo è proprio molto recente, è stato scritto da Nicoletta il 27 giugno scorso, proprio a ricordare, tra le varie cose, ma comunque anche per ricordare Silvia Rivera e la rivolta di Stonewall, la rivolta della comunità LGBTQI, che appunto nella notte tra il 27 giugno e il 28 giugno del 1969 a New York si ribellò all'ennesima prepotenza, all'ennesima retata violenta da parte della polizia e decise appunto di non rassegnarsi, ma di combattere i poliziotti, e quindi ci furono 3 giorni di scontri intensi. E appunto parteciparono a questa rivolta migliaia di persone, e Silvia Rivera appunto è stata una delle protagoniste di questa rivolta, una delle compagne che ha innescato, diciamo, questa rivolta. Allora vado a leggervi il post dedicato a Silvia Rivera e alla bottiglia che lanciò. Come è noto, una recentissima sentenza della Corte Suprema statunitense ha reso illegale l'interruzione di gravidanza, rendendo ancora più difficile la vita delle donne in quella che continuano a spacciare come patria dei diritti, malgrado si sia poco o niente evoluta dalla mentalità da Far West su cui è stata fondata, sterminando la popolazione nativa o relegandola nelle riserve. I peggiori guerrafondai sono immancabilmente proprio quelli che si sbracciano contro le donne che abortiscono. Si chiama difesa ipocrita della vita. Verrebbe da pensare che ritengano le donne delle mere incubatrici riproduttrici da sfruttare in base alle esigenze del capitale e della propagazione della razza bianca, in particolare se si tiene conto delle campagne statunitensi per la sterilizzazione forzata del secolo scorso e di quelle ancora in atto oggi in quei territori. E ci si riferisce alla sterilizzazione forzata, che vale in molti stati degli Stati Uniti, ai danni delle persone disabili. Per parlare di difesa ipocrita della vita, peraltro, non c'è bisogno di andare oltreoceano. L'altra sedicente patria dei diritti, l'Europa, non è da meno. Che dire della Polonia, oggi più guerrafondaia e antiabortista che mai, o della stessa Italia, che pullula di obiettori negli ospedali, che ha imposto per il nostro bene sieri sperimentali i cui effetti deleteri emergono di giorno in giorno con sempre maggiore chiarezza e che si affanna ad alimentare una guerra dopo l'altra? Inutile dilungarsi con altri esempi, basta guardarsi intorno o informarsi un po' per trovarne a iosa. Mi preme invece rilevare come sia sempre più ricorrente l'espressione, terribile quanto assurda, diritto di aborto, che da una parte dissimula l'incapacità maschile di praticare una sessualità non riproduttiva penetrativa e dall'altra impone di leggere le contraddizioni del reale in un'ottica meramente dirittista, quindi delegando tutto allo Stato e ai suoi apparati e sottraendo, nei fatti, ogni spazio all'autodeterminazione e a chi la pratica veramente. La mentalità dirittista è ormai talmente pervasiva che può capitare di leggere nella piattaforma di un Pride X in una città X: vogliamo una nuova legge sull'autodeterminazione di genere sulla base del consenso informato. Essendo una ragazza dello scorso millennio, nella mia testa autodeterminazione e legge sono categorie opposte. Si è forse ormai persa ogni capacità logica al punto che l'autodeterminazione viene fatta coincidere con la sovradeterminazione? Decenni dopo la rivolta di Stonewall, di cui questa notte ricorre l'anniversario, la deleteria mescolanza di perbenismo borghese e postmodernismo hanno smantellato le istanze di rabbia e autodeterminazione espresse in quella e in altre rivolte, addomesticandole per misere carrierucole di politicanti o per altrettanto misere rivendicazioni dalla base. Una base, peraltro, senza base, se pensiamo, ad esempio, alle rivendicazioni contro razzismo e abilismo in cortei dove sfido chiunque a trovare immigrati, immigrate o disabili. Come scriveva Luciano Parinetto, il riconoscimento alienato è la perdita stessa dell'autenticità, di quel diverso che rendeva l'eros testimone di una radicale contestazione della atomizzazione consacrata del capitale, e Parinetto lo scriveva in Faust e Marx. La lotta contro pregiudizi e discriminazioni specifici, agiti contro individualità e o soggettività specifiche, sta trasformandosi nell'ennesima notte in cui tutte le vacche sono nere, in cui tutto è indistinto. È sartrianamente una serie, o meglio, una serie di serie. Capita quindi che qualcuno o qualcuna attinga dalla palude degli ismi per accusare di abilismo chi ha scelto, ad esempio, di autodeterminarsi rispetto all'inoculazione di sieri sperimentali, sottraendosi alla pressante campagna vaccinale fino magari anche al punto di perdere il lavoro. Così come l'autodeterminazione da pratica si rovescia in diritto, che deve essere concesso dall'alto, la difesa autentica della vita, rovesciandosi in difesa ipocrita della vita, può andare a braccetto con le logiche di guerra e con quelle di depredazione, sfruttamento e sterminio del vivente, senza contraddizione alcuna, anzi, avanti a tutta dritta verso la catastrofe. Ecco, e proseguiamo quindi così nell'approfondimento di questa affermazione: l'autodeterminazione è un sabotaggio, e dando lettura di un ulteriore contributo, questa volta un contributo del marzo 2014, quindi di qualche anno fa, che però è molto approfondito, è molto, molto interessante e anche molto attuale. Questo contributo inizia con una citazione dal libro Il grande Calibano, storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del capitale, di Silvia Federici e Leopoldina Fortunati. Leggiamo: il capitalismo assume le differenze fisiche e psicologiche che nel Medioevo contrassegnavano l'uomo e la donna e le approfondisce in corrispondenza al differenziarsi delle funzioni economiche e sociali a cui vengono destinati. La separazione tra produzione e riproduzione permette al capitale sia di riprodurre la forza lavoro, solo in quanto direttamente produttiva, sia di introdurre profonde divisioni all'interno del proletariato, che garantiscono un maggior controllo su di esso. La differenziazione tra personalità maschile e femminile, o potremmo dire l'accumulazione delle differenze tra i sessi, è uno dei terreni su cui più apertamente si esplica l'iniziativa capitalistica nella sua prima fase storica. Che cosa si intende per differenziazione tra personalità femminile e maschile? Si tratta di una selezione che all'interno delle capacità lavorative, per cui si separano quelle idonee al lavoro di produzione da quelle idonee alla riproduzione, e si condensano le prime negli uomini e le seconde nelle donne. Nell'uomo si reprime ciò che sarà destinato ad essere esclusivamente femminile, nelle donne ciò che sarà esclusivamente maschile, mentre in entrambi si sviluppano le doti che più gli competono. Mai dunque, come nella società capitalistica, l'uomo è stato tanto maschio e la donna tanto femmina. La costruzione dell'uomo e della donna come opposte polarità ha diverse funzioni: creare una personalità totalmente femminile e una totalmente maschile è la condizione per depurare la capacità lavorativa da ogni caratteristica ad essa non funzionale. Inoltre, una volta differenziati, uomo e donna potranno essere riuniti senza eccessivi rischi nella famiglia e costretti a lavorare insieme per la propria riproduzione. Porre l'uomo e la donna come personalità dimezzate sarà infatti un modo efficace per obbligarli ad affrontare la vita insieme, poiché la loro complementarietà si tradurrà in necessità di cooperazione, in condizioni di profonda interdipendenza nell'ambito della famiglia. È in concomitanza con la riorganizzazione del rapporto familiare che nel corso del 500 e 600 si assiste a una crescente mascolinizzazione dell'uomo e femminilizzazione della donna, un processo tutt'altro che incruento e di cui la caccia alle streghe è l'aspetto più macroscopico. Ciò che non muore sui roghi viene progressivamente distrutto da uno stillicidio di legislazioni e prescrizioni che investono tutto il corso della vita quotidiana, dai comportamenti individuali alle strutture più remote della psiche. Da questo attacco, che nella sua prima fase si dipana nel giro di quasi due secoli, nascono un uomo e una donna le cui caratteristiche saranno contrabbandate come dati naturali. Ma se si scrostano le mistificazioni erette a difesa della differenza tra sessi, risulta chiaro che dietro la presunta naturalità dei comportamenti sessuali si occulta una vasta opera d'ingegneria sociale che spezza e costruisce, reprime e sviluppa. Anzi, proprio laddove si vuole leggere più naturalità, si deve vedere più devastazione e sviluppo, e anzitutto la distruzione di quegli elementi che contraddicono le funzioni a cui uomini e donne vengono destinati. Non potrebbe esserci sintesi più efficace per spiegare la torsione che il patriarcato capitalista, già dai suoi albori e supportato anche dalle istituzioni ecclesiastiche, ha operato sul genere umano, prima in Europa, poi, grazie alle imprese coloniali, in tutti i territori su cui ha allungato i suoi artigli predatori. La vittimizzazione delle donne è un dispositivo funzionale all'indebolimento delle donne e di conseguenza al mantenimento della subalternità femminile. In sostanza è uno degli strumenti ancora attuali di quella medesima vasta opera di ingegneria sociale. Vorrei proporre un ulteriore spunto di riflessione: l'assunzione di una prospettiva e di pratiche post-vittimistiche in ambito femminista è un atto di sabotaggio del patriarcato capitalista suprematista bianco. Sia chiaro una volta per tutte che non mi riferisco ad un femminismo di stampo emancipatorio o pari opportunistico, che è ben lungi da me. L'autodeterminazione stessa è uno strumento di sabotaggio, ma soltanto se intesa come ricerca e sperimentazione di autonomia radicale dai meccanismi di oppressione, dunque ben al di là della riduttiva e riduzionista difesa delle leggi sull'aborto, con cui il potere tiene furbescamente impegnate da decenni le energie di tante donne. Quando nel 1970 il manifesto di rivolta femminile affermava: «Noi cerchiamo l'autenticità del gesto di rivolta e non la sacrificheremo né all'organizzazione né al proselitismo», cos'altro intendeva? Il post-vittimismo si innesta dunque nella storia del femminismo radicale e delle sue pratiche di sabotaggio. Ne è, a mio parere, una necessaria declinazione. Rompere coi dispositivi vittimizzanti che ci tengono inchiodate a una identità, a un ruolo, a una sessualità e a una forma di relazione significa rifiutarsi di essere una specie soggiogata dal mito della realizzazione di sé nell'unione amorosa con la specie al potere e al contempo rifiutarsi di spartire quel potere e di farsene complici. Audre Lorde aveva sintetizzato efficacemente questa rottura in Usi dell'erotico. Ci dice Audre Lorde: se cominciamo a vivere da dentro a fuori, in contatto con il potere dell'erotico in noi stesse, permettendo a questo potere di ispirare e di illuminare le nostre azioni nel mondo intorno a noi, allora cominciamo ad essere responsabili di noi stesse nel senso più profondo, perché man mano che cominciamo a riconoscere i nostri più profondi sentimenti, smettiamo necessariamente di essere appagate dalla sofferenza e dall'autonegazione e dal torpore che così spesso sembra essere la loro sola alternativa nella nostra società. I nostri atti contro l'oppressione diventano integrati con noi stesse, motivati e potenziati dall'interno. La storia ci spiega che gli operai che con i loro zoccoli, sabot in francese, danneggiavano i telai a vapore delle manifatture, volevano autodeterminare il proprio destino contro il dominio del capitale e delle macchine. Oggi le pratiche di sabotaggio contro le devastazioni dell'ambiente e della salute vengono rubricate nella categoria di terrorismo. Si consegue in tal modo un triplice obiettivo: criminalizzare tanto le lotte contro le nocività quanto le pratiche femministe di autodeterminazione dell'esistenza e di rifiuto della delega allo Stato patriarcale e ai suoi apparati, nonché cancellare definitivamente la vera storia del terrorismo in Italia, che è quella delle stragi fasciste e di Stato. In sostanza, si vorrebbero suscitare in noi orrore e raccapriccio verso la pratica del sabotaggio per indurci a spuntare i nostri strumenti di autodeterminazione, smantellare la cassetta degli attrezzi del femminismo radicale, rinnegare la nostra storia, quei decenni di lotte e resistenze che hanno fatto vacillare secoli di dominio patriarcale e renderci duttili e malleabili al dominio del capitale e dei suoi apparati. Non cadiamo in questa trappola. Stiamo ascoltando ancora le Arum Scarum, che abbiamo anche ascoltato in sottofondo durante l'intervento, band statunitense di Portland, nell'Oregon, e questo era il loro album datato 2004, The Last Light. Mentre ora sfumeremo questo brano per andare ad ascoltarci questa band italiana di Imperia, loro sono i CGB, che sta per l'acronimo di Crime Gang Band, e questo è datato invece 2012, questo loro album che si intitola L'1%, quindi ora CGB. Di niente, stretti, saldi a quell'uno, a quel per, a quel cento, stampato in testa, perso in un corridoio di luce fredda, pronunciato da qualcuno che tornerà a casa sereno stasera. L'1% di tutto, l'1% di niente, a abbracciandoti forte in una fredda mattinata di dicembre, goffa nella tua giacca di qualche misura più grande. Ti guardo perderti nel trambusto della gente, l'1% di tutto, l'1% di niente. Per ora tutto resta immobile, sospeso, in attesa che il dolore passi, vuoto. C'è solo un grosso lupo nero che si aggira attorno alla casa, un grosso lupo nero si aggira attorno alla casa, l'1% di tutto, l'1% di niente. Un saluto a tutte e tutti. Questa volta vi voglio proporre un consiglio di lettura, o meglio vorrei prendere a pretesto questo libro di cui andremo a parlare stasera per cominciare un confronto con un autore che oggi è quasi dimenticato. C'è la tendenza a darne per scontata la conoscenza, se non in qualche caso addirittura archiviarne l'esistenza e catalogarla come

di essenza. Wesen vuol dire, è una declinazione del verbo sein, quindi in tedesco c'è, emerge questo riferimento diretto alla critica, diciamo, radicale della metafisica tradizionale. Bene, allora abbiamo ascoltato durante questo intervento una band di Milano, dal loro album datato 2020, cioè loro erano i Tenia, mentre rimaniamo sempre in quel di Milano, perché ora andiamo ad ascoltarci quest'altra band, sono i Kalashnikov Collective, e dal loro album invece Romantic Punk datato 2017 ci ascoltiamo un paio di brani. Yeah. E siamo sempre sul Zardins Magnetics, trasmissione condotta, curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste, e rimaniamo sempre nel deserto e, attraverso la lettura di alcune parti così di, del libro del deserto di Ingeborg Bachmann, un libro molto tormentato che ha avuto tre stesure, però non definitive, e che poi è stato inglobato in un ulteriore testo della Bachmann, che si intitola Il libro Franza. Vivere, scrivere, prendere le noci e le mandorle dal sacco delle parole non è nulla, non è un merito. Ma la magia, la quieta e lungimirante stupidità, l'incorporamento della follia in una costruzione razionale. Un numero di pagina, una parola che ricorre in un dato punto. Un foglio cestinato a causa del numero di pagina, la presenza di un cane, di una certa pianta, l'allusione a qualcosa che non ha più niente a che vedere col libro. La più sottile e stravagante allusione a un brano musicale, a un giorno, a una data, a una figura, a un malessere passeggero. Non ho mai capito bene in quale bozzolo io viva lavorando. Mi spavento quando sento dire che oggi è il 3 o il 26, per far solo un esempio. Di colpo mi sento allegra perché oggi è il 27, lo considero un bene. Potrei fare qualcosa, la birra è già calda, al Cairo l'aria è ferma. Ferma, non c'è refrigerio. Getto via un libro dalla finestra nel maleodorante salmastro braccio del Nilo e poi vi getto alcune lettere. Dopodiché mi spavento. Qualcuno potrebbe trovare e leggere quelle lettere. Sono il prodotto di ogni mia notte, ora sfornato persino al Cairo. Dov'è il golfo di Aqaba? Mi sono trasformata in una fabbrica notturna. Lettere, lettere, ma non ho ancora dato mie notizie. Nessuno sa dove sono, né ciò che ho in mente di fare. Testa, da quando non funziona più a dovere, questa testa, cioè da quando so ogni giorno di averla e lei me lo dimostra, come una gamba dolorosamente ferita ti manda a dire ogni giorno: eccola la tua gamba. Così trascino la mia testa attraverso il giorno e lei mi trascina attraverso il giorno, attraverso la notte. Dormire, sì, dormire. Solo di rado ho ancora paura, o meglio, non sarei più in grado di dire sotto quali zoccoli sia stato per un anno intero il mio cranio, quali allucinazioni lo abbiano fatto impazzire, quale camicia di forza gli abbia gettato addosso il ricordo. Soffrire come una bestia. Non mi è mai venuto in mente nient'altro che questa frase fatta, muta e sfigurata, percorsa da brividi, da crampi, in preda a convulsioni epilettiche. E nessuna possibilità di riuscire a parlare, solo gemiti sospesi negli occhi, occhi che si aggrappano alla lampada o a una persona. Misericordia, vi prego, aiutatemi. Dio, nel bisogno più estremo, c'è questo nome. Qui ha probabilmente la sua radice. Ormai mi interessa soltanto la radice dei nomi. Se li si prende da un'altra parte, risultano privi di senso. Nell'interrogatorio, gli uomini, le donne, esiste tutto questo? Non esiste. Nonostante abbia valore per gli uffici dell'anagrafe, per i ministeri della famiglia, per l'industria dell'abbigliamento, esistono solo le teste, i cuori, i desideri, che cercano di farsi strada in lungo e in largo, i dolci amori nei quali a celebrare la resurrezione sono gli oggetti e gli attimi, non le persone. Lasciatemi oggi e domani, lasciatemi fare soltanto qualcosa di buono e poi nient'altro. Lasciatemi essere solo un po' gentile e poi non dire altro. Si è accumulato così tanto bagaglio che ho dovuto pensare a come trasportarlo fino all'orlo del deserto. Dove sarà mai il deserto? In Oriente, in Africa, sì, da qualche parte, ma si dovrà pur vedere, ci si potrà pure andare, come in un'acqua poco profonda, e allora si vedrà una tenda e ci saranno due cammelli, e si starà a guardare senza pensare a niente, ma non sarà un'immagine, perché fa troppo caldo per vedere un'immagine. Farà molto caldo e si cavalcherà o si andrà in automobile. Il cammello si abbasserà goffamente, così potremo salire sulla sua groppa e per non cadere ci terremo stretti, almeno finché il cammello sta dritto sulle zampe anteriori. Un animale fantasma al quale si è completamente affidati, che ci culla mentre lo cavalchiamo. Andai dunque nel deserto, la luce si rovesciò su di me. L'eruzione del cielo, il suo odore nitido, ardente, mi è divenuto familiare. Sono fuggita, anzi, mi sono ribellata, allontanata dalla clinica. Mentendo, ho fatto sparire le mie tracce. Mi sono procurata il siero con dei pretesti. Ho simulato che la vista si annebbiasse e di poter stare a galla, senza dover annaspare con le braccia. Ho falsificato i referti. Non c'è più bisogno di menzogne qui. Tutti guardano fisso dinanzi a sé, tutti hanno uno sguardo che non promette più nulla. Il deserto è nuovo di zecca. Ha avuto inizio al mattino, la corriera del deserto viaggia per un'ora e un'ora ancora sulla pista appena visibile. Poi è come se avesse sfondato il muro del tempo. Infine il tempo non conta più. C'è qualcosa in vista, un posto di blocco militare, una sbarra piccola e malferma si leva dinanzi alla corriera dopo un breve cerimoniale nella solitudine più assurda. Alla stazione successiva scendono alcuni uomini giunti a destinazione, a quanto pare, presso la compagnia dei fosfati lì davanti, con le sue baracche, e c'è anche una casa, ci sono caffè e acqua. Ai più grandi e grossi vengono portati dei narghilè. E 30 uomini si mettono in coda nel corridoio, mentre poche ore prima si erano allontanati per alcuni passi nel deserto, armeggiando con Lady Ellaba e i pigiami imperturbabili. Per un momento la corriera resta praticamente vuota. Tra i bagagli si intravedono dei pesci intorno ai quali i blocchi di ghiaccio hanno cominciato a liquefarsi già da Suez, alcune bottiglie di yogurt, un po' di insalata e ortaggi, adocchiati con preoccupazione da chi ritorna. E per la prima volta presi in considerazione anche da me. Una borraccia con l'acqua viene fatta passare in giro dal conducente, tutti ricevono un bicchiere metallico e bevono qualche sorso. Un attimo di incertezza, il pensiero corre al capitolo prevenzione. Fantasmi di malaria, Rezokhin Bayer, bilarziosi, cane rosso, detto anche scarlattina del Nilo, malaria. Fare attenzione a lavare la frutta con sapone, mai acqua non bollita, meglio tè o acqua minerale. Poi lasciare tutto in pergamanato di potassio per 10 minuti. Non immergersi in acque stagnanti o che scorrono pigre. Calzare sempre sandali. Non fare la doccia più di 3 volte al giorno. Alcol sublimato all'1 per 1000 2 volte al giorno sui puntini arrossati della pelle dopo il bagno. Quando mi arrivò il bicchiere, dopo che era stato usato da più della metà dei passeggeri, fu semplice decidere. Presi il bicchiere e bevvi quel che mi spettava. Tutto era diventato semplicissimo, qualsiasi cosa accadesse. A chi fanno paura qui i batteri? Chi lava un bicchiere? Chi fa bollire l'acqua, qualora ci sia l'acqua? Chi spidocchia le foglie di insalata? Nessuno. Fame, sete, è così che si riscopre cosa bisogna ottenere. Un tetto sopra la testa, ombra, un letto, un giaciglio, una tenda. Chi si preoccupa d'altro? Guai se si rompe l'asse. La benzina deve bastare, le autocisterne devono arrivare. Guai se si perde la pista. Veli di sabbia si sollevano. Per la prima volta il vento ha frugato nella sabbia. Terreno fuggevole, fluttuante, appare per la prima volta minaccioso nell'aria. Gli occhi morti e prosciugati non si staccano più dal deserto e il deserto entra negli occhi con dolce persuasione e con i suoi infiniti disegni. Che cosa cerchi in questo deserto, diceva la voce del deserto, in questo paesaggio unico che nulla tenta di dire? La guarigione, in fuga da chissà cosa. Arrivano i bianchi. I bianchi restano a terra, ma io ho la purezza dinanzi agli occhi. Io non ho nulla. Dov'è il golfo di Aqaba? Ero di razza inferiore, l'umiliazione subita ha abbassato il livello del mio sangue. Con torture, con supplizi, mi hanno strappato dal corpo ogni vocale, ogni consonante, ogni sillaba. E dire anche una sola frase diventa un'impresa di inaudita sofferenza. I loro esperimenti mi hanno fatto perdere la ragione, insieme alla dignità, ai miei diritti, che come chiunque ritenevo garantiti. Mi hanno trascinato al patibolo, la mia testa è stata tenuta sott'acqua, il mio sesso distrutto come quello di un ratto che deve servire da cavia per un fine più alto. Hanno cambiato colore ai miei occhi finché si sono scuriti. Mi hanno imposto l'aureola del demente e dell'inerme, di colui che va evitato nel giorno più freddo. Mi hanno spinto a forza nella neve. Hanno mutato il mio letto in un covo di cimici in cui le macchie di sangue e i morsi nulla erano in confronto alla paura di finir strangolata dalle mani dei bianchi. Con un colpo secco avevano spaccato il ghiaccio del lago perché potessi annegare qualora i tubi divelti del gas avessero portato la mia attenzione su un rintocco diabolico. Tra Natale e Capodanno, tra uno scampanellio e l'altro, nulla è rimasto intentato per togliermi di mezzo, per rendermi innocua e rafforzare l'alibi dei bianchi. I bianchi arrivano. Arrivano i bianchi, conoscono solo indigeni e io sono di razza inferiore. Lo sono perché nutro lo stesso loro odio, perché alle mie spalle non ci sono 2000 anni a esonerarmi dall'odio. Mi sono ribellata ieri nel ghetto, negli slums. Ho paura, i bianchi arrivano e non li temo perché l'odio rende i bianchi paurosi. Chiamano la polizia, si richiamano ai costumi e alla morale. Ho fatto a pezzi ridendo quei costumi e quella morale. Ah, lo sai, ho provato la miseria della mia razza con la mia sensualità, con la mia avidità, con il mio trionfare sui danni arrecati dai bianchi. L'uomo bianco è inferiore e teme che io lo dica. L'ho ucciso nel nostro letto e lui non si perdonerà mai la propria inferiorità. Contro di essa ha bisogno della polizia, del diritto, della sopraffazione. Ha bisogno della violenza perché nel suo letto non riesce più a starci. L'uomo bianco è inferiore, debole, un nessuno. Una sciocca istituzione che vuole controllare l'operato degli altri senza concorrenza. Hello? Hello? If I had my time again, I'd like to come back as a man. If I had my time again, a cock and not a hen. I don't wanna be like my mother, hang behind, fall behind, wait on all the others. If I had my time again, if I had another life, I'd get myself a wife. If I had another life to care for me by day and night, she would be just like my mother, hang behind, fall behind, wait on all the others. If I had another life, I used to be a tart, sold myself as art. Now I feel just like my mother, her price is low, she doesn't bother. Thank you. I used to be a tot, saw myself as art. Now I feel just like my mother, her price is low. She doesn't bother. What do you know about anything, you stupid woman? Why don't you piss off where you belong? E stiamo ascoltando in sottofondo questa band inglese, diciamo la band storica dell'anarcho-punk inglese della fine degli anni 70. Loro erano i Poison Girl, questo è il loro album datato 1980 e si intitola X. E tra l'altro nell'80 questa band anarcho-punk con la cantante quasi cinquantenne che è vissuta fino al 2016 per morire all'età di 81 anni. Vabbè, comunque ascoltiamoci ancora i Poison Girls. Just another day of the empty in the rubbish. Have the kids gone out to play? Are you waiting while the bar fills up? Watching while they read the papers? Read the headlines over breakfast. Breadlines, deadlines, has the milk cup? Is it time to have a crisis? Is it safe to go out shopping? Crisis, crisis, panic buying. Water dripping on the carpet. Normal, normal, just another day. While they read the papers, have the shops run out of rubbish. Is it time to have a crisis? Still a beat? Take your clothes off, can you stand it if I touch you? Watching while they read the papers, water dripping on the carpet. Can I say no? Will he hit me? Blaster falling from the ceiling. Can you stand it if I touch you? Break the ice, burn the house down. Bene, siamo anche giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine e appunto dalle ore 20 alle 21.30. Vi ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. Inoltre potete anche contattarci scrivendoci sulla posta elettronica di liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendoci direttamente in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo anche questo indirizzo: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre potete riascoltare tutte queste trasmissioni, ovviamente anche questa, andando sul blog di Zardins Magnetics radio.noblogs.org. Ripeto, Zardins Magnetics radio.noblogs.org. Inoltre potete anche seguirci su Telegram digitando, cioè scrivendo t.me/Zardins, ricordo t come Torino, .me/Zardins, questo su Telegram. Bene, vi lascio con questo ultimo brano ancora dei Poison Girl. Ciao a tutti e al prossimo giovedì. Thank you.